E buonanotte a tutti i suonatori. Quelli che la devono far fuori, a chi c'è al mondo sempre più lontano, per chi ha vissuto sempre contro mano, a chi non butta via la notte coi pensieri, a quelli che una coppia è già una folla. Dicono che il cielo sia una palla, a quelli che da soli ci stanno stretti e pensano che il cielo sia di tutti, a lui e lei che stanno insieme solo con la colla, e poi a quelli che non ritornano, certo lassù. Forse lassù sono capaci di non dormire mai più. Chissà se in cielo passano gli U. Chissà se in cielo passano gli U. Chissà che nome darti avrà il DJ. Prende le richieste che gli fai, che gli fai. A chi decide di ammazzare il tempo, e il tempo invece servirebbe vivo, a chi sta in giro perché non ha scelta, perché comunque il sonno non arriva, a quelli che ogni notte puoi giurarci son presenti. E buonanotte a chi la sa godere, ma quelli che han bisogno di star male, a chi ha paura di restare fermo e sogna un po' più forte quando è sveglio, a quelli che non hanno mai saputo dove andare, e poi a quelli